Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. Tutti sappiamo come si fa l'acqua distillata, oppure come produrre acqua bevibile a partire dall'acqua di mare. Basta bollirla e recuperare il vapore, poi raffreddare questo vapore affinché condensi nuovamente in forma liquida, e il gioco è fatto. Eppure, con l'esclusione di qualche paese del Golfo che ha petrolio da buttare, nessuno si sognerebbe di realizzare così un moderno impianto di distillazione dell'acqua. La tecnologia che va per la maggiore in tutto il mondo si fonda infatti sull'uso di speciali membrane. Cosa sia una membrana lo suggerisce il nome, qualcosa che ha una superficie molto ampia e uno spessore molto piccolo. E la tecnologia moderna consente di realizzare membrane speciali caratterizzate da una porosità, per così dire, controllabile, in pratica dei filtri ma molto molto sofisticati. Ebbene, se su queste membrane si fa scorrere un liquido che contiene delle sostanze disciolte, come per esempio l'acqua salata del mare, e applicando una pressione sufficiente, il liquido passa attraverso la membrana ma non le sostanze disciolte, che si concentrano quindi da un solo lato della membrana. Questo approccio è già largamente diffuso in vari settori, ma c'è ancora spazio. C'è spazio per nuove applicazioni. Cerchiamo di capire dove con il professor Massimo Pizzichini, ricercatore dell'Enea, esperto appunto di membrane. Buonasera, Pizzichini. Buonasera a lei. Allora, vuole aggiungere qualche altro dettaglio? Per esempio, mi incuriosirebbe sapere quanta energia si risparmia dissalando l'acqua con una membrana rispetto a farla evaporare, condensarla e così via. Ma insomma, intanto lei ha parlato di osmosi inversa, che è una tecnologia molto diffusa. Il consumo energetico tra un impianto di evaporazione tradizionale e quello a membrane è notevolmente più basso per le membrane, di circa un fattore 100. Insomma. Ah, caspita, un fattore 100. Ecco, tra l'altro, l'utilizzo di queste membrane, al di là del risparmio energetico, ha anche altri vantaggi, cioè si possono fare cose che semplicemente con una distillazione, insomma, non si potrebbero fare o sarebbero molto più complicate. Certamente, certamente. Noi, quando confrontiamo l'osmosi inversa con l'evaporazione, la distillazione, stiamo parlando solo di una delle tecnologie di membrana, che è l'osmosi inversa. In realtà queste membrane sono caratterizzate da diverse categorie di filtri in funzione delle loro dimensioni dei pori, quindi quando i pori sono larghi dell'ordine del micron, parliamo di microfiltrazione, quando i pori sono un po' più stretti e cioè possono trattenere per esempio delle molecole proteiche, parliamo di ultrafiltrazione, quando sono ancora più stretti, cioè possono trattenere i sali bivalenti, parliamo di nanofiltrazione, ed infine dell'osmosi inversa, che è una tecnologia che trattiene tutto e fa passare solo la molecola dell'acqua. Ecco, d'accordo. Dicevamo anche che questa è una tecnologia, appunto, non certamente nata ieri, sono molti i settori nei quali si applica. Ecco, io le chiederei di farci qualche esempio, anche per aiutarci a inquadrare meglio la tecnologia, ma soprattutto poi di farci qualche esempio di casi nei quali si potrebbe utilizzare con vantaggio tipo energetico e invece non si fa. Sì, tenga presente che nei sistemi a membrana si parte da un alimento, quello che si vuole filtrare, sia esso acqua di mare, succo di frutta, vino, birra e quant'altro, latte certamente, e poi diciamo si ottiene un permeato e un concentrato. In molti casi tutti e due questi effluenti sono i prodotti della filtrazione. In questo processo l'energia primaria è spesa per alimentare la pompa, quindi parliamo di energia elettrica, è una frazione molto piccola per mantenere il processo in condizioni isotermiche, perché un'altra caratteristica fondamentale di questi processi a membrana è quella di effettuare delle separazioni fino a livello molecolare a temperatura ambiente, certo. Quindi senza danneggiare principi attivi, molecole, vitamine, eccetera, che sono termolabili. Ecco, quindi ha fatto qualche esempio nel caso dell'industria alimentare. C'è qualche altro caso? Prendiamo ancora l'industria alimentare, che è un'industria fiorente in Italia, in cui questa tecnologia si potrebbe utilizzare e invece non si utilizza? Quello che noi abbiamo fatto anche all'Enea con le nostre applicazioni specializzate, abbiamo sviluppato un processo per trattare un rifiuto dell'industria agroalimentare che deriva dalla spremitura delle olive. Sì. Questo effluente si chiama acqua di vegetazione. Come forse lei saprà, quando si portano le olive al frantoio si produce da 100 kg 12-13 litri d'olio, 70-80, a volte anche 100 litri di queste acque di vegetazione e una percentuale di sanze. Queste acque sono fitotossiche, e vengono sparse sui terreni con una normativa piuttosto antica. È discutibile, immagino. Molto discutibile. Noi abbiamo dimostrato che queste acque in realtà non sono un rifiuto ma una materia prima fondamentale, perché da queste acque si estraggono delle molecole che sono anticancro, anti-HIV, proteggono il sistema cardiocircolatorio, insomma sono degli antiossidanti estremamente potenti. E noi abbiamo applicato queste tecnologie su queste acque di vegetazione in modo da frazionare appunto le acque, recuperare tutte le componenti chimiche presenti in queste acque, compresi i polifenoli, e da questo processo recuperiamo anche il 60% in volume delle acque. Questo processo non l'avremmo potuto mettere in piedi se non avessimo potuto disporre delle tecnologie di membrana. Va bene, allora, grazie Pizzichini. Grazie a lei, buonasera. Pensate che sono 9 milioni le tonnellate di questa acqua di oliva che viene aspersa ogni anno sui terreni italiani, il cui contenuto inquinante è paragonabile a quello prodotto da 25 milioni di abitanti. Insomma, forse qualcosa è il caso di farlo. Questo è tutto, domani Mr. Kilowatt torna, parleremo di autostrade, di come il Tronco 2 abbia messo in campo alcune iniziative, come sempre, per risparmiare energia. Buona serata.